chiamare, lo chiamerei il dispositivo della rimozione. L'Italia è un paese che ha una lunghissima storia razzista, gloriosa, diciamo famosa, intellettualmente ardita e diciamo così conosciuta, ben conosciuta in tutta Europa. È una tradizione che ha, sta alla base di alcune grandi come i manicomi giudiziari, per esempio, come i campi di concentramento, come la schedatura etnica o come la schedatura dattiloscopica, per esempio, che oggi molto molto diciamo. Il problema della rimozione ecco, è importante perché vuol dire che in Italia c'è stata molta attività razzista, ma non si è quasi mai parlato, e dal dopoguerra oggi non se ne è proprio parlato, di questa attività. Allora voglio proporvi due momenti di questa storia. Un momento che è legato all'Unità d'Italia, quindi 1861, quando si costruisce questa Unità d'Italia, ma diciamo i piemontesi, i nordici, no, hanno una serie di problemi molto grossi di addomesticamento delle, diciamo, delle persone, delle popolazioni, della Calabria, della Sicilia, in particolare della Calabria. Viene allora impegnato un capitale intellettuale molto sostenuto, che è quello di Cesare Lombroso e della sua scuola, uno psichiatra, un medico psichiatra, per cercare di fornire allo Stato italiano la legittimazione del suo intervento di normalizzazione rispetto a queste terre che sono ostili, che sono ribelli, che non hanno nessuna voglia di essere dominate da Savoia, insomma, e non hanno nessuna idea, diciamo, chiara del loro destino in relazione all'Unità d'Italia. Cesare Lombroso allora elabora un saggio molto importante, che è un saggio sulla Calabria e sui calabresi, per dimostrare che le popolazioni calabre sono popolazioni metropolitane, popolazioni orientali e non occidentali. E questa differenza, dice Lombroso, è una differenza essenziale, perché le popolazioni orientali, africane e orientali, sono popolazioni geneticamente inferiori. Essendo geneticamente inferiori, è normale che abbiano dei comportamenti criminali, ribellistici e criminali, ed è perciò legittimo, assolutamente giustificato e giusto attaccare questi ribelli, ricondurli a una ragione che è la ragione dell'Occidente, ed è la ragione degli ariani, cioè di una cultura occidentale ed ariana. Questa teorizzazione, diciamo, dell'intervento militare normalizzatore, che produrrà peraltro decine di migliaia di morti, cioè nell'arco degli anni che, va dall'unità di, che vanno dall'Unità d'Italia al fascismo, insomma, no? È un, diciamo così, un dispositivo che si istituisce in piena cultura, diciamo, liberale, cioè, no? È già in un passaggio che è un passaggio importante nella storia italiana, dalla dominazione degli aristocratici, diciamo così, di più vecchia data, alla dominazione dei padroni terrieri soprattutto. Pensate che poi all'Unità d'Italia ci sono i grandi, si parla di Savoia, ma sostanzialmente sono i grandi proprietari terrieri, no? Delle zone di dove vivo io, cioè delle Langhe, del Piemonte più ricco, Cavour. No, il conte Cavour è un grandissimo imprenditore terriero, ed è quello che in Italia impegnerà l'Unità d'Italia, le nascenti strutture scientifiche, per combattere la peronospora, che era, diciamo così, una minaccia alle sue linee, no? e viene utilizzato quindi un capitale diciamo di ricercatori, che era l'Accademia delle Scienze allora, cioè per diciamo sconfiggere la peronospora. Questo lo dico per far vedere come all'Unità d'Italia noi abbiamo un certo tipo di cultura, che è la cultura poi che viene nei libri di storia insegnata, quella cultura diciamo liberale, chi ha fatto l'Unità d'Italia, eccetera, che è una cultura tuttavia intimamente, profondamente razzista per quel che riguarda l'attacco normalizzatore di una parte di questo paese. Questa impostazione resta, diciamo, si normalizza nell'arco dei decenni, diventa così ovvia e naturale che il primo intervento in Africa che farà poi lo Stato italiano, cioè con le prime colonie, eccetera, è un intervento che avviene sulla base di una teorizzazione di tutta la scuola lombrosiana, no, della inferiorità delle popolazioni africane, un'inferiorità diciamo considerata genetica, è un'inferiorità con la quale bisogna purtroppo fare i conti, e bisogna fare questi conti in termini di missioni civilizzatrici. Cioè è giusto che i paesi occidentali sviluppino un'attività coloniale, vadano in queste terre a colonizzarle, non perché questo è un interesse economico, non perché questo è, come dire, un problema legato alle materie prime o legato a delle terre, alla possibilità di inviare un surplus di manodopera, cioè da quelle parti, non per questo, che saranno delle ragioni economiche vere e profonde di questo tipo di dinamiche, ma per una missione diciamo civilizzatrice. È importante andare a fare quest'opera civilizzatrice. Questa idea è l'idea che poi il fascismo raccoglie, no? E elabora ulteriormente e mette a punto, diciamo, in un dispositivo culturale che fino allora era rimasto nell'accademia, era rimasto quindi diciamo nei grandi diciamo nomi della psichiatria, sostanzialmente alcuni filosofi insomma, ma che era restato così a livello sparpagliato. Il fascismo lo raccoglie, lo mette a punto in un documento che è il Manifesto della razza, diciamo così, scritto da Landra, ma con diciamo il retroterra di tutta questa scuola, in cui si afferma in una maniera chiara e categorica questo tipo di nozione, questa idea, e la si specifica rispetto a una serie di gruppi che non saranno, la si specifica anche coinvolgendo gli etnologi dell'epoca, gli antropologi dell'epoca, cioè i filosofi dell'epoca, cioè, e si cerca di fornire un quadro di legittimazione dell'intervento coloniale. Quindi come si era legittimato l'intervento sulle popolazioni meridionali, così si va ora a legittimare l'intervento in Etiopia, l'intervento diciamo così in Eritrea, Etiopia, in Libia, in Somalia, cioè in tutta questa zona. Un intervento che in termini diciamo concreti significa uno sterminio straordinariamente intenso. Pensate che solo nel deserto del Gebel le tribù che furono deportate dalla Libia, insomma, no, in campi di concentramento, solo nel viaggio, questo è Graziani nei suoi diari che lo dice, quindi c'è fonte fascista autorevole, solo nel viaggio diciamo dal deserto al campo di concentramento ci sono stati 25.000 morti di fame e di sete, perché l'esercito italiano, no, fascista in quel caso, cioè non aveva diciamo una capacità logistica, ma insomma neanche una struttura tale da poter diciamo alimentare, no, queste popolazioni in una maniera adeguata. Molte di queste donne, uomini, bambini vennero lasciati proprio a gruppi, a mucchi nel deserto, no? I campi di concentramento poi che vennero fatti, 18 campi di concentramento solo in Libia sono campi di concentramento che sono passati alla storia per il numero straordinariamente alto di morti di fame, cioè a differenza dei campi di concentramento tedeschi, cioè, molti morivano di stenti, cioè in un periodo piuttosto lungo, lì si moriva proprio di fame perché si moriva in un tempo molto breve, cioè non c'era proprio un'alimentazione adeguata. Dico questo per dire che mentre questo, diciamo, aggressione coloniale su base razzista avveniva nelle università italiane, il razzismo veniva insegnato in una maniera massiccia. C'erano 48 cattedre di teoria della razza nelle università italiane, 48 cattedre che sono rimaste sempre operanti a pieno regime fino alla caduta del regime fascista, cioè, e quindi siamo di fronte ad un, diciamo, un investimento culturale di estrema intensità. Questo, io ho fatto l'esempio, diciamo, delle deportazioni e dei morti di quel genere, ma possiamo però anche fare un'altra serie di esempi che ci mostrano come un volto del razzismo sia la pura criminalità, cioè il razzismo, poiché considera inferiore l'altro, non considera crimine il suo sterminio, tant'è che nelle guerre, l'Eritrea, insomma, di cui ho parlato, prima della Somalia, tutta quella zona lì venne usata per esempio di brinte, no? Vennero usati i gas asfissianti che erano già vietati all'epoca dalle convenzioni internazionali e venivano considerati crimini di guerra. Ora questo è molto importante perché io ho introdotto questa riflessione, diciamo, sul razzismo dicendo che in Italia la cosa più importante da discutere quando si parla di razzismo è la sua dimensione. Questa per me è la prima di tutte le discussioni che bisogna fare, e bisogna farla perché con la caduta del fascismo è successo un fatto clamoroso e interessante che ci hanno anche rimproverato in tutta Europa, in mezzo mondo, cioè, ma diciamo così, nel silenzio delle istituzioni italiane. Cioè è successo che è stato fatto un grande accordo per carità di patria tra il Partito Comunista, Togliatti e, diciamo, le altre forze politiche per mettere una pietra sopra a tutto quello che era avvenuto fin lì, per non parlarne, perché bisognava parlare della Chiesa e quindi della Democrazia Cristiana, bisognava parlare del fascismo, e il fascismo era operante nel primo dopoguerra. Voi sapete tutti che, non so, la riforma Gentile dell'università siamo riusciti ad attaccarla nel 68, cioè fino al 68 l'università italiana era impostata secondo la riforma Gentile. Il codice Rocco, no, è ancora operante in gran parte, insomma, cioè, e tuttavia ha accompagnato tutto il dopoguerra italiano, tutte le lotte degli operai, dei contadini, degli studenti, degli impiegati di chiunque altro, cioè, no? Il regolamento carcerario, no, quando sono andato in carcere io, quindi nel 72, no, era ancora il regolamento carcerario fatto nel fascismo, durante il fascismo. Per questo bisognava dire superiore, cioè alla guardia, perché era un regolamento carcerario fondato sull'idea razzista che chi finiva in carcere era un criminale, cioè uno geneticamente tarato e inferiore. C'era proprio una forte legittimazione teorica dietro, diciamo, fatti che apparivano negli anni 70 abbastanza, diciamo così, sconcertanti. No, come chiamare superiore, diciamo, un agente, cioè, non perché non sia inferiore, ma perché sarà come tutti gli altri un cittadino, cioè, voglio dire, cioè, alla pari, cioè, no? Qualunque siano le sue idee. Bene, allora questo per dire che la rimozione è il primo punto fondamentale da discutere. Io penso che sarebbe bene che in Italia si aprisse una grande riflessione a livello accademico, a livello, diciamo, editoriale, a livello culturale, a livello di reti, culturali su che cosa significa rimuovere questa, la cultura che c'è stata dall'unità d'Italia alla fine del fascismo per ciò che riguarda il razzismo. Noi abbiamo fatto un passo importante in questa chiave qui, pubblicando questo libro che è uscito da pochissimo, che è Difendere la razza, un libro di Nicoletta Piedimani, che è una ricercatrice, compagna, una ricercatrice di Milano, dell'Università di Milano, dove ricostruisce un aspetto di questo discorso, come è stato costruito il concetto di razza durante il fascismo. Ecco, con quali implicazioni, tanto etnografico, antropologico, culturale, per quel che riguarda sia le razze intese come razze, quindi cioè la razza africana, la razza orientale, come dicevano loro, o gli zingari, no? Sia anche le politiche di genere, le implicazioni che ci sono state rispetto al rapporto tra maschile e femminile, cioè in tutti quegli anni che si introduce. Ho parlato anche degli zingari perché gli zingari sono stati un elemento molto particolare dell'elaborazione razzista rimossa. Molto particolare perché sempre la scuola di Lombroso ha introdotto rispetto agli zingari una nozione che poi è stata fatta propria dai tedeschi, dal Terzo Reich, ed ha portato allo sterminio di 500.000 persone in Europa, ed è la nozione di criminalità nomadica, cioè secondo Lombroso i nomadi, no? Le popolazioni nomadi sono portatrici di una inferiorità genetica, culturale, no? Che le rende proprio perciò criminali, essendo nomadi e non stanziali, come tutte le, diciamo, le civiltà, diciamo, occidentali, secondo il suo linguaggio. Ecco, questa diciamo, bizzarria nomadica, questa eredità nomadica è un'eredità che va censurata, va criticata e va prevenuta. Da questo punto di vista Lombroso propose la schedatura etnica, cioè di tutti gli zingari. Un suo allievo venne incaricato allora di preparare un piano di polizia per la schedatura genetica degli zingari, e questo progetto fatto intorno al 1920, diciamo che parte come ragionamento intorno al 1920, viene fatto alla fine degli anni 30, no? Viene poi passato ai tedeschi, che lo utilizzano e lo provano, lo sperimentano per fare la prima schedatura, diciamo, su base etnica di una minoranza razziale, cioè da attaccare. La schedatura, quindi, diciamo, degli zingari tedeschi è figlia di un'attività fatta dai laboratori culturali italiani. E così anche tutta l'operazione di schedatura dattiloscopica, no? L'Italia ha una polizia scientifica all'avanguardia in quegli anni, diciamo, gli anni a cavallo del fascismo, e ha una schedatura, diciamo, ha una polizia scientifica all'avanguardia perché è una polizia scientifica che nasce con l'idea, con un'idea che fino allora non era un pregiudizio generale, ma non ancora articolato su base accademica, in una maniera quindi scientifica, diciamo così, che era che chi finisce il criminale è un criminale per natura, cioè quindi se finisce in carcere, diciamo così, difficilmente poi farà qualcos'altro nella vita, cioè perché è per natura criminale. Ecco, Lombroso e la sua scuola, cioè, teorizzano questo punto in una maniera più solida, più forte, e dicono: poiché noi abbiamo già molti criminali nelle carceri, no? Cominciamo a prendergli tutte le misure antropometriche necessarie per dimostrarlo, questa idea generali, e gli misuriamo il cranio, gli facciamo le fotografie, gli prendiamo per verificare una serie di costanti di regolarità che possono mostrarci su una base medico-antropologica, cioè poi la validità delle nostre teorie. Tra i dati importanti da recuperare ci sono le impronte digitali. Le impronte digitali fino a quel momento erano avevano avuto l'attenzione di alcuni filosofi, di alcuni intellettuali che si erano particolarmente interessati a questa particolarità, ma non c'era nessuna teoria ancora rispetto all'utilizzabilità delle impronte come schedatura, come identità, come possibilità di recupero. Ecco, la grande idea che hanno invece Lombroso e la sua scuola è quella di dire: beh, no, noi abbiamo un bacino di criminali, no? Prendiamo a tutte le impronte, così intanto ci garantiamo dal fatto che potremo controllarli preventivamente in qualche misura, perché se usciranno dalle carceri noi già un'impronta ce l'abbiamo e quindi possiamo risalire a loro. Poi possiamo fare una banca delle impronte, no? E possiamo fare un censimento, che è l'idea che, per dire, ha accompagnato poi tutte le istituzioni carcerarie fino a oggi, e che poi porta a degli sviluppi attuali che sono la banca del DNA, non solo quella del rilevamento dattiloscopico, e quelle sono le misure che vengono prese, mettiamo, rispetto ai migranti oggi, no? Che si presentano sul terreno europeo con documenti cartacei poco sicuri, ecco che allora le polizie scientifiche cercano di recuperare un'identità attraverso una forma più sicura, che è l'impronta dattiloscopica, la fotografia e poi in particolare sarà il DNA. Allora, questo è il primo punto. Un punto che credo molto importante, perché è quello a cui noi siamo meno abituati a ragionare quando parliamo di razzismo. Ed è così importante perché le mappe culturali che si sono formate in quel periodo, no, con il fascismo, non sono affatto svanite. Le mappe culturali che si sono formate in quel periodo sono rimaste nella cultura italiana, perché non discusse fino ad oggi. E ve ne do una dimostrazione tecnica. Durante il fascismo sono stati fatti in Italia 200 campi di concentramento per zingari, ebrei, comunisti, cioè persone che si opponevano al regime, nel periodo che va dal 38 al 44, 45, no? In quel periodo sono stati fatti 200 campi di concentramento. Molta di quella gente è finita all'interno dei campi di concentramento tedeschi, erano, come dire, strutture per convogliare soprattutto gli ebrei. Il documento che istituisce il campo di concentramento durante il fascismo è assolutamente identico al documento che istituisce i centri di detenzione per i migranti, i CPT, i centri di permanenza temporanei, prima e prima ancora dei CIA, dei centri di identificazione e espulsione più recenti. Ed è interessante mettere i due testi a fronte, i testi che istituiscono questi due documenti, perché entrambi questi documenti legittimano questa istituzione reclusiva sulla base di un concetto, che è il concetto di indesiderabile. Perché io ti metto in carcere? No? Perché non ti desidero? Non perché tu hai fatto qualcosa, ma perché io non desidero che tu stia qua. Non desidero che tu stia qua perché sei geneticamente inferiore e quindi puoi contaminare la mia razza. Pensate al problema del meticciato, che è una discussione che accompagna tutta la cultura fascista, che ha le origini, purtroppo troviamo ancora oggi molto spesso. Cioè, chi ha il meticciato è che porta poi a impedire i matrimoni, tra zingari e italiani, no? è un'idea fondata sul fatto che questi matrimoni non sanno da fare, perché possono nascere da questi matrimoni dei figli che sono tarati, perché il sangue che scola nelle vene, diciamo così, dei genitori, no, di uno dei genitori è un sangue, diciamo così, inferiore, che contiene dei geni criminali, o che contiene dei geni di inferiorità razziale. Ecco, allora noi abbiamo oggi, per dire, negli anni più recenti, noi vediamo nascere un'istituzione, che è il Centro di Permanenza Temporanea, che è un campo di concentramento, che è istituito sulla base dell'indesiderabilità, no? E ciò nella cultura italiana, no? Non provoca né sdegno, né furore, né rabbia, non provoca nulla, provoca, come dire, un po' di giovani, un po' di centri sociali, cioè qualche, ma pochissimi peraltro, qualche docente che dice qualche cosa intorno a queste strutture, e tuttavia queste strutture si diffondono al punto che tra i gestori di queste istituzioni, nelle gare d'appalto, noi troviamo le COP. Le COP, quindi la Lega delle Cooperative, troviamo istituzioni religiose, no? Che fanno, come dire, opere di carità in giro per il mondo. E ciò non viene ritenuto sconveniente. Non viene ritenuto sconveniente perché non viene messo al centro il nodo che queste istituzioni rappresentano. Cioè, non viene, diciamo, l'uso pratico che ne viene fatto, il nodo teorico, il nodo culturale, cioè il fatto che sono istituzioni razziste, fondate su un'idea razzista, cioè che non possono essere, diciamo così, legittimate in alcun modo se non attraverso una teoria razzista. Quindi, primo punto, questo. Secondo punto che voglio portare alla vostra attenzione è la nozione di inferiorizzazione. Ora, l'inferiorizzazione è un dispositivo sociale molto particolare che consente, diciamo, a chi lo, al gruppo sociale che lo applica, di creare una discriminazione e di legittimarla nello stesso tempo. Creare una discriminazione di per sé non significa legittimarla, per dire, sempre. Noi nella nostra vita discriminiamo infinite volte, discriminiamo tra i nostri amici, quelli più vicini e quelli, diciamo così, a cui, quelli a cui, in cui confidare un pensiero, quello a cui non confidarlo, no? Discriminiamo delle persone da invitare, discriminiamo in continuazione, la discriminazione, come dire, è un dispositivo che è da sottovalutare, ma diventa estremamente grave questo dispositivo quando la discriminazione viene legittimata come inferiorità dell'altro, quando si ritiene che sia giusto discriminare perché l'altro, no, quello che tu discrimini, è socialmente inferiore a te. Ho già fatto una serie di discriminazioni di questo genere, voglio però qui dire a che cosa serve questa discriminazione razziale, che ha un contenuto razziale, e serve per costruire una operatività sociale del gruppo più forte, che è quella di coinvolgere nella sua operazione il più gran numero possibile di cittadini, no? Direttamente nell'opera di discriminazione. Voi sapete che il fascismo, cioè a differenza, per dire, dei sistemi politici precedenti, utilizzò a piene mani i giornali, utilizzò a piene mani la radio, allora, no? Come il nazismo utilizzò molto la radio, utilizzò molto i mezzi, diciamo, di comunicazione di massa, ecco. Questo era un passaggio radicale, importante rispetto alla cultura liberale, che era una cultura molto aristocratica. Alla fin fine, come dire, gli Einaudi se ne potevano strabattere che i contadini fossero molto ignoranti. Loro erano i proprietari terrieri, erano i grandi, diciamo così, ricchi del paese, erano l'autorità politica e culturale di questo paese. Dei contadini avevano solo il problema che fossero disponibili, che lavorassero, che non rompessero troppo le scatole, no? Il fascismo invece aveva il problema di guadagnarsi una forza sociale e aveva quindi bisogno di coinvolgere nuovi strati sociali nel suo lavoro, cioè diciamo così. E per coinvolgerli, come si fa a coinvolgere qualcuno? Coinvolgere voleva dire responsabilizzare nella sua politica, fargli fare la sua politica. Non un regime razzista che opera dall'esterno contro una minoranza, mettiamo gli zingari, gli ebrei, ma tutti i cittadini, no, che operano contro quella minoranza, cioè il gruppo sociale più forte che, come dire, viene mobilitato direttamente contro il gruppo più debole. Questo dispositivo è il dispositivo del capro espiatorio ed è un dispositivo molto importante perché consente di realizzare due scopi. Uno è naturalizzare la repressione, diciamo così, l'annullamento del gruppo più debole, ma soprattutto scaricare su quel gruppo una serie di responsabilità che sono invece legate al funzionamento ordinario della vita sociale, no? Ecco, facciamo un esempio attuale di come funziona questo dispositivo. Quando vengono attaccati i migranti come minaccia per la sicurezza nel mondo del lavoro, la sicurezza delle strade, cioè, e via di seguito, vengono attaccati perché c'è un grande interesse a utilizzare il lavoro dei migranti come lavoro non regolamentato, non normale. Se io faccio passare un migrante dentro un CPT, lo schedo, lo butto fuori come illegale criminale, no? Ma lo tengo sul territorio italiano, no? È verosimile che quest'uomo andrà a lavorare nei mercati generali per 1 euro all'ora, come succede a Milano. Quanto pa vengono pagati questi? 10 euro al giorno, no? Ma se gli va bene, perché noi abbiamo raccolto, per esempio, nei dannati del lavoro, in altri lavori di ricerca, infinite storie di migranti che hanno lavorato casomai per un mese, 20 giorni, e alla fine sono stati buttati semplicemente fuori senza essere neanche pagati. Perché si può fare questo? Perché il gruppo dei migranti è diventato, diciamo simbolicamente, il capro espiatorio di ciò che non funziona, no? E allora ecco che noi abbiamo questi che ci minacciano la sicurezza sul posto del lavoro, no? E nello stesso tempo noi però li utilizziamo, cioè senza alcun diritto, e consentiamo un po' a tutti di utilizzarli senza alcun diritto. Nei campi di concentramento c'è un sociologo polacco che ha fatto uno studio molto bello, è pubblicato anche in Italia dalla TEF, si chiama Sofsky, questo sociologo, che si è interessato di un grande rimosso del nazismo, che era cosa facevano i tedeschi all'epoca dei campi di concentramento intorno ai campi di concentramento. Ecco. E lui è riuscito a dimostrare che i tedeschi la cosa che facevano era bussare tutti i giorni ai campi di concentramento per prendersi le badanti, per prendersi i contadini, per prendersi gli operai delle varie fabbriche e fabbrichette, cioè perché andavano lì e dicevano oggi ho bisogno di 30 lavoratori, oggi ho bisogno di 3 contadini, oggi ho bisogno di 20, e questi gli venivano dati e questi andavano a lavorare tranquillamente. Credo che nelle memorie di molta gente che è stata nei campi di concentramento voi trovate, potete trovare, cioè, moltissime di queste storie. Storie di gente che in qualche modo, diciamo così, è finita nel campo di concentramento ed è stata utilizzata, diciamo così, fuori dal campo di concentramento. Naturalmente queste stesse persone sono le persone che, finito l'esperienza concentrazionaria, non si ricordavano neanche più che ci fossero stati campi di concentramento. La smemorizzazione, voglio dire, è un dispositivo importante, per quello che portare attenzione alle rimozioni è importante. L'inferiorizzazione ci porta però anche a a mettere bene in chiaro una funzione del razzismo, una funzione tecnica del razzismo, che è probabilmente la più importante, cioè che c'è oggi, cioè, in Italia almeno, che è la funzione del controllo sociale. Cioè, un diciamo, dispositivo razzista mascherato, cioè naturalizzato, che viene portato avanti senza che nessuno si accorga poi alla fin fine, si renda alla fin fine ben conto di cosa sta succedendo, consente una gestione del controllo sociale di tipo nuovo, di tipo diciamo, fascista, moderno, no? Di coinvolgimento. Pensate alle ronde, a questa idea delle ronde. Allora, in questi giorni sui giornali noi leggiamo delle notizie tranquillizzanti sul fatto che le ronde non avranno le divise, non avranno le armi, non avranno le pistole al peperoncino, le bombolette al peperoncino, quindi saranno, come dire, cittadini integerrimi, eccetera. Allora, perché servono? No? A cosa servono? Perché bisogna farle? Bisogna farle perché sono dei cittadini occhiuti, sono dei cittadini che faranno, diciamo, gli spioni, faranno una operazione di spionaggio civile. Lo spionaggio civile è interessantissimo, perché tutti i regimi hanno bisogno di uno spionaggio civile. Pensate a cosa è stato il dopoguerra italiano con tutti i gruppi che ogni tanto vengono fuori anche dalle inchieste giudiziarie, no? Di tutti questi cittadini segretamente coinvolti in attività di informazione, cioè dai paesi alle fabbriche, eccetera. Bene, coinvolgere i cittadini in questa attività è una modalità di coinvolgere nella gestione diretta del controllo. Cos'è il controllo? Il controllo è un dispositivo, controllo sociale, è un dispositivo mediante cui dei politici aizzano una parte della popolazione, che è quella che poi vota sostanzialmente, quel loro bacino, diciamo così, di attenzione, contro una minoranza, no? Razzialmente individuata. Allora saranno i migranti, saranno gli zingari, saranno i romeni, a seconda del momento, insomma, in cui si realizza questo tipo di operazione, li aiutano a considerarli un pericolo, un grave pericolo, diciamo così, e quindi a cooperare con le forze poi di polizia, con le forze politiche, per mettere, diciamo, di nuovo in equilibrio il sistema sociale. Le cose non vanno perché ci sono questi pericoli, eliminiamo queste minacce e le cose andranno di nuovo bene. Come le eliminiamo queste minacce? Le eliminiamo in più modi, cioè con i CPT, per cui è inutile discutere cosa sono i CPT, sono strumenti che servono a eliminare questa minaccia. Le eliminiamo costruendo una schedatura su base etnica. Pensate alla schedatura dei Rom, no? Che è stata chiesta, cioè, in Italia, cioè come una schedatura etnica. Sta passando peraltro in tutti i campi Rom, che sono diventati dei piccoli campi a sorveglianza totale, no? E via di seguito. Potremmo fare moltissimi esempi di questo genere qui. Noi abbiamo pubblicato un bellissimo libro di Vania Mancini proprio per poter mostrare questo dispositivo, che è un libro che nasce in un campo Rom di Roma, uno dei quattro campi Rom di Roma, di quelli che Veltroni per primo voleva chiudere, no? E che Alemanno adesso, diciamo, si incarica, cioè, trattare, ecco, cioè, un processo che è del tutto indipendente dall'orientamento politico, diciamo così, dei partiti attuali, perché è un processo connaturato a un'idea di controllo sociale che è identica. Ebbene, in questo lavoro si mostra come si può, per dire, a partire da un gruppo di ragazze rom fare un'operazione opposta al controllo sociale, mostrare che i rom, per esempio, sono portatori non di un gene criminale, ma di una cultura straordinaria legata alla musica, che molta di questa cultura è stata confiscata dagli italiani o dagli tedeschi. Pensate a Liszt, cioè, no? Cioè, un grandissimo musicista che viene nominato, no? Come musicista occidentale, mentre è semplicemente rom, cioè uno che ha una storia di questo genere. Pensate a tutta la tradizione musicale, diciamo, e alla tradizione della danza che è legata alla cultura rom, la danza, dalla danza del ventre, a tutta una serie di forme di danza moderna, cioè, che in molte scuole vengono insegnate. Allora, alcune bimbe rom molto giovani, con Vania Mancini, che ha una sua sensibilità particolare, partendo da un campo rom, no, fanno vivere questa cultura e fanno vivere una immagine del mondo rom, per esempio, diversa. Ma questa immagine del mondo rom non la si riesce a portare da nessuna parte. Non la si riesce a portare perché non la si può portare nelle scuole, perché ci sono una serie di problemi, via di seguito. Alcune di queste ragazze rom non si sa bene se hanno i documenti in regola, no? Alcune sono cittadine italiane, sì, ma stanno in un campo rom, e via di seguito. Questo è un secondo aspetto che vi invito a guardare. Un terzo punto che vi voglio segnalare è importantissimo, è la dimensione economica del razzismo, cioè il razzismo come business, non solo come, diciamo, sistema di controllo sociale, ma come affare, un colossale affare economico, no? Oggi fare un CPT, un centro di identificazione ed espulsione, è un'impresa economicamente vantaggiosa. Lo Stato italiano dà 35 euro per ogni persona, ogni giorno che viene tenuta in una di queste strutture, e un progetto di Marroni, cioè quindi del ministro in carica, sta pensando a un'espansione numerica delle presenze che dovrà arrivare nell'arco di 9 anni, cioè secondo questo documento che è stato anche reso pubblico da alcuni giornali, dovrà arrivare fino a una capienza di 50.000 posti, cioè pari al sistema carcerario italiano, che significa una quantità di euro spaventosa per chi gestirà, per le misericordie che gestiranno questo tipo di istituzioni. Ecco, c'è una lotta, quindi una carica per arrivare a gestire queste istituzioni, perché si colloca nella tradizione più avanzata delle trasformazioni dei sistemi penali occidentali. Pensate al carcere americano, che sta privatizzandosi e all'interno del quale, per esempio, ci sono lotte feroci tra direttori di carceri dei vari stati per procurarsi i detenuti. Più detenuti hanno, più soldi avranno, no? Avere molti detenuti significa avere un budget più elevato, più denaro da gestire. Gestire un CPT significa avere moltissimi soldi oggi, soprattutto perché le persone che ci vanno a finire dentro possono essere tenute in regime di fame, possono essere tenute in un regime subumano, perché uno sguardo disattento della società, diciamo, che ospita queste istituzioni, consente di fare su quelle persone qualunque cosa, compreso consente di ammazzarli. Quanti di voi sanno quanta gente è stata ammazzata all'interno dei centri di permanenza temporanea italiana? Oggi, per esempio, sui giornali italiani, io ho preso La Repubblica, cioè ce l'ho qui in macchina, lo potete vedere, troverete un trafiletto di 6 righe, 7 righe, no, su un immigrato che è stato ucciso, cioè ieri. sei leader, ti può uccidere uno, la uccisa, basta un altro. Se sei leader su una colonna, non è notizia, non fa notizia, la gente che muore nei CPT muore e basta. E muore non solo con le legittimazioni tipiche del carcere, no? Che sono, diciamo, malattia di cuore, collasso, cioè no, una, ecco per cui sembra che siano, muore perché viene fatto così. Se voi andate su internet e fate una piccola ricerca, troverete che il numero oltrepassa le centinaia. E siamo quindi di fronte a una disattenzione estremamente grave, perché i CPT non ci sono solo in Italia, ci sono in tutta Europa e ci sono in tutta la fascia che circonda l'Europa, e sono un'istituzione crescente, una nuova istituzione che, diciamo così, abita insieme a tutte le altre. Ecco, allora, dicevo, per quel che riguarda questo aspetto, business colossale, tantissimi soldi, e le istituzioni di carità, comprese diciamo le cooperative sociali della COP e della sinistra, cioè che vanno a fare gli appalti per prendere, diciamo così, questi soldi, dovrebbero essere sottoposte a una attenzione, diciamo, piuttosto diciamo consistente, perché quando noi andiamo a comprare, per esempio, alla COP, no, ci sentiamo dire da questa istituzione commerciale che è l'istituzione commerciale eticamente più credibile. Noi siamo un'istituzione etica, vi garantiamo che qui i pomodori che mangiate non vengono da campi in cui qualcuno sfrutta, no, diciamo il lavoro e non lo paga. Sono delle falsità che in alcuni lavori noi abbiamo dimostrato, cioè diciamo così, in parte sono delle falsità. Ma comunque è ancora più grave che chi fa parte di una lega delle cooperative possa poi partecipare all'appalto per un centro di permanenza temporaneo senza che questo, come dire, susciti una reazione anche in quella parte di cittadini che poi va a cooperare la COP. Cioè, ecco, solo per fare vedere un piccolo cortocircuito molto importante, perché dice una cosa su quanto noi stiamo dicendo. Dice che questi problemi non riguardano qualcuno, ma riguardano ciascuno di noi. E ciascuno di noi deve fare una grossa operazione su di sé. E sarà l'ultimo punto che voglio proporvi. Ma prima voglio ancora dire una cosa sul business economico. Il, diciamo, dispositivo razzista è un business economico, perché per questo noi abbiamo fatto questa ricerca che abbiamo chiamato i dannati del lavoro, perché le economie occidentali, in particolare l'economia italiana, oggi subirebbero un collasso terribile se venisse meno, no, la funzione dei centri di permanenza temporanea come selettori e produttori di una sottoclasse di lavoratori senza diritti. I lavoratori senza diritti non sono persone che vengono dal Maghreb, dal Punjab, questa è una falsità. I migranti non vengono a lavorare nelle nostre strutture, vengono e passano attraverso istituzioni che sono i centri di permanenza temporanea, che li producono come clandestini senza diritti. Prima non ci sono dei clandestini senza diritti, prima ci sono persone che hanno tutti i diritti del mondo, come voi e come me, voglio dire, i diritti che ci hanno lasciato, diciamo così, no? Però comunque qualche diritto per loro. Ecco, tu non li hai più questi quando qualcuno te li leva, e te li leva perché se tu ti chiami Mohammed e vai a finire in un CPT, quando esci dal CPT non sei più Mohammed, cittadino nato a il 20, no, sei un clandestino, che significa in Italia non esisti, non hai né nome, né cognome, né età, non ci sei. E se non ci sei, no, chiunque può fare di te quello che vuole. Sei quello che Alessandro Dal Lago chiama una non persona, uno che non ha diritti, non ha nome, non ha nulla, ha solo forza da erogare. Allora noi andiamo a vederla, questa intorno a un analizzatore di questi giorni, ipocrita quanto mai, che è l'analizzatore delle badanti, no? Un'ipocrisia colossale che sta passando, per dire così, in una specie di soap opera italiana piuttosto disgustosa. Ma insomma, le badanti sono 900.000, ci dicono, cioè, non possono essere anche 100.000 in più, 100.000 in meno, eccetera. Saranno un problema le badanti e non è un problema Mohamed che lavora in una piccola fabbrica metalmeccanica? E perché mai? Che differenza c'è? C'è una differenza, che le badanti sono a casa nostra, no? Sono a casa di tanta gente che noi conosciamo, sono persone che sì, vengono un po' anche aiutate tutto sommato, perché non avrebbero la casa, non si saprebbe dove metterle, no, poverette, se qualcuno non gli dà anche da lavorare, quindi uno sfruttamento che viene addirittura moralizzato, c'è persino una, diciamo così, un buon gusto, cioè, diciamo così, in moltissimi anche della sinistra, diciamo così, rispetto a questo problema. Allora le badanti bisogna salvaguardare, perché altrimenti un grosso bacino di elettori si incazza, no? Ma nessuno va a salvaguardare i ragazzi minori che per esempio vanno a lavorare ai mercati generali di Milano. Nessuno li va a salvaguardare. Pure voi andate alle 4 del mattino, se volete, ai mercati generali di Milano e troverete che ce ne sono tantissimi. Tanti che sono minori, che non sono buttati fuori da tutte le istituzioni italiane, perché le istituzioni italiane non hanno voluto spendere soldi per costruire le comunità che secondo il diritto internazionale dovrebbero ospitare. Il diritto internazionale dice che se uno è minore e capita sul tuo territorio deve essere tutelato, dovrebbe andare a finire quindi in una comunità, ma le comunità non ci sono. E allora i carabinieri, quando fermano un minore, cosa fanno? Dicono: se è un minore, non so dove metterti, va sulla strada. E un minore sulla strada cosa farà? Ai mercati generali. Ai mercati generali cosa farà? Lavorerà per un euro all'ora, se gli va bene. Ecco che allora noi abbiamo un colossale business economico. Cioè, famiglie, aziende, contadini, aziende agricole utilizzeranno tutto questo lavoro, diciamo così, per valorizzare al massimo il loro capitale, per spendere molto pochi soldi e, come abbiamo cominciato a vedere, anche per fare un'operazione più sporca, che è l'operazione di condizionamento del lavoro precario. Cioè, io posso condizionare il lavoro precario dei giovani italiani, ma non solo dei giovani, oggi sempre più anche delle fasce meno giovani, no? Dicendogli: guarda, non rompere troppo le scatole, tu che ti lamenti di un contratto a tempo determinato, tutto sommato tu qualcosa ce l'hai, qualche diritto ce l'hai, perché c'è qui Karim che sta vicino a te, no? Che lavora in una cooperativa che è senza diritti, cioè, e che quindi, cioè, prende la metà di quanto tu prendi. Quindi stai tranquillo. Noi questo l'abbiamo trovato allo Shan, Carrefour, a Nessalunga, cioè nelle grandi aziende. L'abbiamo trovato nel Bergamasco, a queste aziende famosissime che fanno pulire alla notte i macchinari, no? I macchinari, gli ingranaggi, i macchinari pericolosi, no? A delle cooperative che hanno in appalto la pulizia e che diciamo portano i lavoratori di notte. Abbiamo trovato con storie del tipo: tanto di notte, cosa vuoi che uno vada a vedere, hanno tutti la pelle nera, cioè a me francamente non me ne frega proprio niente sapere come si chiama quel lavoratore lì. E allora ecco che abbiamo dei dispositivi di sostituzione di lavoratori, abbiamo addirittura dei dispositivi in cui delle cooperative prendono appalti e fanno lavorare, no, al posto dei soci della cooperativa, dei lavoratori totalmente in nero, raccattati, così, no? Tanto chi vuoi che vada a verificare che sono. Storie di questo genere, dico, non ci sono solo nelle periferie del mondo del lavoro. Noi nell'azienda Totale abbiamo documentato che ci sono il Corriere della Sera, cioè, voglio dire, storie che vengono dagli uffici del Corriere della Sera, storie che vengono dalle grandi opere di Berlusconi. Andate a vedere le grandi opere di Berlusconi a Milano, cos'è? sono enormi strutture, no, di ricchissime, ma poi grandi opere sono sistemi che danno appalti ad altre aziende che danno appalti, ad altre aziende che danno appalti, ad altre aziende che danno appalti, e alla fine di scendere negli appalti noi troviamo Mohammed, Hakim, eccetera, che non hanno diritti e che lavorano esattamente nel modo in cui dicevo. Razzismo allora è anche naturalizzare questo sistema di cose. Cioè, questo sistema c'è, no? Funziona, va bene, produce una serpeggiante economia di sostegno a delle aziende deboli, a delle famiglie che spendono meno, eccetera. E quindi utilizziamo simbolicamente, diciamo, i migranti per stigmatizzarli, per presentarli come l'uomo nero, per fargli diventare il capro espiatorio, per giustificare e legittimare i centri di permanenza temporanea, le schedature, i nuovi sistemi di controllo, eccetera, e nello stesso tempo per creare un bacino di lavoro senza diritti con il quale noi possiamo procedere. E che è il terzo dei libri che noi proponiamo, diciamo così, come struttura di ragionamento per fare dei passi avanti su questo terreno. Infine, l'ultimo punto, perché non voglio neanche poi portare via altro tempo, è una considerazione finale che voglio proporvi, sulla quale bisognerebbe lavorare molto, che è il razzismo come dispositivo arcaico. Quando noi parliamo di questi dispositivi, parliamo di dispositivi che sono molto antichi, cioè non sono recenti, sono molto più antichi ancora della loro storia moderna, che è quella di cui in qualche modo abbiamo rapidamente cercato di parlare. Sono dispositivi arcaici fondati sull'idea di mettere l'altro, no, al posto della minaccia. L'altro è una minaccia. Ora, perché l'altro è una minaccia? L'altro è una minaccia perché presenta, diciamo, caratteristiche sconosciute. L'altro è una minaccia per la tua ignoranza. L'altro è una minaccia perché parla una lingua che tu non conosci. L'altro è una minaccia perché è portatore di abitudini alimentari diverse dalle tue. L'altro è una minaccia perché ha un modo di usare il colore, il vestito, la musica diverso dai tuoi, cioè è una minaccia delle tue consuetudini, dei tuoi luoghi comuni. È un luogo non comune. E quindi, diciamo così, è una presenza che ti chiede un'attività creativa, non un'attività adattativa. Noi siamo dentro sistemi che sono costruiti sull'adattamento a delle, diciamo, violenze istituzionali che sono diventate naturali, naturalizzate. Per noi è diventato naturale vivere in un certo modo. Guardate in giro, sì, cosa ci vuoi fare? La situazione va un po' così, sì, in Italia. Invece di ciò non c'è proprio di naturale, non c'è proprio nulla, voglio dire. E se le cose vanno in un certo modo è perché sono istituite e hanno precisi, chi le istituisce ha precisi scopi. Allora, discutere questo dispositivo, diciamo, arcaico significa sostituirne un altro, proporne un altro, anch'esso molto arcaico, se si vuole, che però in Occidente, oggi, nella cultura italiana è sparito, che è l'interculturalità. L'interculturalità è un dispositivo, per esempio, che noi troviamo in Australia, diciamo, negli aborigeni australiani, i quali hanno costruito una cultura fondata sull'apprendimento delle molteplici lingue e delle molteplici tribù, per cui più diciamo, lingue uno conosce, più è in grado di sopravvivere nella vita di relazione, perché conosce e si dà più opportunità. Faccio questo esempio perché l'Italia è un paese che funziona al rovescio. L'Italia è un paese in cui si è proposto addirittura recentemente, a livello centrale governativo, di insegnare i dialetti nelle scuole. Ma siamo diventati male. Un paese, un mondo che si mondializza, diventa planetario, cioè in cui diciamo, è indispensabile misurare la propria appartenenza al mondo, alla specie, diciamo così, no? Qualcuno propone di spingere, diciamo così, in basso, diciamo, al nulla, al locale, diciamo così, l'orizzonte culturale. Quindi ignoranza culturale. L'Italia è un paese che non conosce le lingue, no? E non le conosce in una misura infima, cioè voglio dire, rispetto ai migranti. Io lavoro con migranti da tanti anni ormai per questo lavoro di ricerca, ma trovo normalmente delle persone che hanno dovuto fare anche molti sforzi, ma è normale per esempio che una persona di lingua araba sappia parlare con me, diciamo in lingua francese, anche in italiano, sicuramente molto di più di quanto io so fare rispetto alle loro lingue, di cui non conosco praticamente nulla, ma io come la quasi totalità degli italiani, cioè pensate, diciamo la competenza rispetto alle lingue del Maghreb, no? Non quelle occidentali, il francese per esempio, che c'è in Italia, è ridicola. Mediatori linguistici non ce ne sono, non ce ne sono nelle scuole, non ce ne sono nelle istituzioni totali, non ce ne sono nelle istituzioni sanitarie. È una normalità, ma questa non è una preoccupazione. Allora io dico, la nostra ignoranza è un terreno fondamentale di costruzione del dispositivo arcaico. Noi siamo ignoranti e abbiamo paura, paura di tutto ciò che non conosciamo. Smontare questo dispositivo vuol dire invece aprirsi all'alterità come diciamo così, un territorio creativo di crescita. Di una cultura planetaria, di una cultura di specie, di una cultura di appartenenza al mondo, non di appartenenza al carroccio, di appartenenza al territorio. Cioè, non c'è più nessun territorio, per fortuna. Diciamo, non c'è più neanche il territorio delle nazioni. Guardatevi solo come siamo vestiti, cioè le mie scarpe vengono metà dall'Indonesia. I miei pantaloni vengono dalla Cina, questa giacca viene sicuramente dal Vietnam o dal Laos, cioè nessuno di noi, il mio computer è fatto metà in Corea, metà da un'altra parte. Chi di voi può ancora dire che ha una competenza territoriale sulle cose? Non c'è più. Non c'è più tutto ciò, non c'è non perché le industrie delocalizzano, questo è un piccolissimo problema, ma perché il mondo diciamo così, si compenetra e compenetrando si crea dei nuovi movimenti di straordinario valore e interesse, che sono movimenti planetari. La gente si muove, ragazzi, giovani, soprattutto questi per fortuna, si muovono, cioè cercano un loro sogno nel mondo e cercano incontri, intrecci, diciamo, creative disponibilità a creare il mondo in cui si vorrà vivere, insomma, in cui tutti vorremmo vivere. E in questo processo, per quel che riguarda l'Italia, noi cominciamo a verificare anche che per la prima volta qualche ricercatore, qualche operatore di strada, qualche persona, diciamo così, attenta e sensibile, comincia a vedere in culture che vengono da altre parti del mondo delle offerte culturali importanti per questo paese, per esempio offerte sul piano della didattica. Pensate tutta diciamo, diciamo, l'elaborazione pedagogica che viene fatta in America Latina, che è stata fatta in America Latina da Paulo Freire, da tutta una serie di scuole nel Centro Africa. Allora noi abbiamo voluto proporre un libro che è molto sintetico ma molto utile, da sud a nord, che raccoglie alcune di queste proposte, diciamo che non sono più dall'Occidente verso l'Oriente e verso l'Africa, ma che hanno un percorso rovesciato, sono proposte per diciamo, immaginare un'interculturalità dinamica, un'interculturalità che non è solo il nostro sguardo per vedere come raccapezzare, no? Come mettere insieme i nostri cocci rispetto ad un mondo in frantumi. Il mondo non è in frantumi, il mondo è in cambiamento, cioè noi non lo percepiamo più e non lo percepiamo più perché la nostra identità non è più in grado di farlo. La nostra identità è altrettanto, diciamo, sollecitata dei grandi cambiamenti. L'idea monoteistica, monoculturale, diciamo così, è un'idea fallita, è un'idea che è andata a pezzi sia nella versione cristiana, no? Che ha prodotto infiniti lutti, pensate, cattolici contro i protestanti, no? Contro le sette, diciamo, tutto ciò che è stato chiamato sette. O diciamo non lo è più sul piano della sinistra, no? L'ideologia, diciamo così, giusta contro tutte le forme eretiche, contro tutte le forme contestate. Cioè, oggi ecco, i monoteismi sono finiti, il mondo, i nazionalismi sono finiti, il mondo ci sollecita a un nuovo sguardo e questo è uno sguardo che comincia da noi. Lo sguardo che deve guardare la nostra capacità di fare i conti con i nostri disorientamenti, con le nostre dissociazioni identitarie. Questo è allora una proposta importante che noi abbiamo voluto pubblicare e che ora d'ora in avanti cercheremo di sviluppare molto per far vedere che abbiamo molto da prendere, diciamo, oggi nel mondo per riflettere, per cominciare a pensarci come si diceva una volta, cittadini del mondo, cittadini di un mondo che non c'è se non nella misura in cui ognuno di noi si mette a costruirlo. Ecco, il senso allora anche di questi incontri, il senso che noi come Sensibilità del Foro mettiamo a questi incontri, è proprio quello di diciamo, stimolare una apertura di parola, un'apertura di riflessione, un'apertura di discussioni, perché riprendere a parlare di questi grandi temi, di questi grandi rimossi è la condizione per fare poi dei passi che ognuno farà come meglio crede sul terreno dell'intervento e sul terreno, diciamo, della politica, delle politiche sociali. Direi che questo è il quadro che, diciamo, avevo in mente di proporre, e se voi volete trovare altre direzioni o dentro queste direzioni approfondire dei punti, possiamo giudicare un po' di intenzione. Io intanto faccio una comunicazione di servizio, stiamo preparando dentro per mangiare. Se quando è finito vi potete, chi rimane qua a mangiare, si accomoda dentro, i tavoli sono quasi pronti. E anche il concerto, facciamo tutto dentro. Tutto dentro per mangiare. Per mangiare. Sono d'accordo su quasi tutto, non sono d'accordo su una cosa che hai detto, poi la dico per ultimo. No, mi sembra molto interessanti soprattutto alcuni spunti. Uno spunto è quello che parte da Lombroso, quindi dal positivismo, quindi da una posizione progressista. Cioè il razzismo ha delle radici in teorie che apparivano come teorie di progresso, no? di avanzamento. E poi quello che provocano queste teorie, mi viene in mente un aneddoto abbastanza divertente che riguarda una persona che abbiamo conosciuto in carcere, quindi una, un conoscente comune, che essendo sardo ed avendo Lombroso appunto sostenuto che non solo i calabresi ma anche i sardi sono organicamente dei criminali, la prima cosa che ha fatto quando è venuto in continente a 18 anni è andato a mettere una bomba al monumento di Lombroso, quindi io gli dicevo confermando che Lombroso aveva ragione, no? Cioè, in modo, però per dire, cioè questa che è una battuta, cioè la storia è vera, ma è una però come tu costruisci, no? O il capo espiatorio costruisci appunto il criminale, il clandestino, no? Cioè, tutte queste cose. Sul discorso della rimozione c'è uno studio fatto recentemente da un giovane ricercatore comasco che si chiama Matteo Domignoni, che è andato proprio a vedere in Etiopia una delle grotte in cui centinaia di donne, bambini, vecchi etiopi, quindi quella che si chiama popolazione civile, sono stati gasati dal maresciallo Graziani, no? Cioè, quindi con questa cosa la rimozione giusto un mese fa, 20 giorni fa, hanno fatto in TV per la prima volta il film Il leone del deserto, no? L'ha fatta su satellite dopo 30 anni, che prima lo vedevi giusto nelle serie ML, no? Cioè se andava bene. Quindi su tutto questo, così come sull'inferiorizzazione, l'aspetto che l'inferiorizzazione comunque continua al di là del fatto che comunque le persone siano presenti su questi territori ormai da molti anni. Parlavamo ieri sera di questi campi Rom, alcuni campi Rom a Milano che sono presenti da 60-70 anni, abbiamo a che fare con ragazzini, non conosciamo appunto per ragioni correlate alla comunità, che sono di terza generazione, ma continuano a essere considerati zingari, sono cittadini italiani, ma continuano a essere considerati zingari. No, la cosa, cioè, quindi c'è questi spunti come conferma delle cose che dicevo. Poi ci sarebbe, come dire, ad aprire un dibattito sul discorso che facevi sui dialetti, perché io credo che comunque il locale, certo il locale non in contrapposizione, non il locale espropriato dai legaioli in questi ultimi 20 anni, ma il locale come storia, che vuol dire la storia mia, ma la storia del ragazzo magrebino della ragazza etiope, secondo me è importante che si trasmettano, come dire, confrontino e così via. Quindi da questo punto di vista io credo che sia giusto anche valorizzare le storie locali, ma valorizzarle dentro, come dire, proprio un discorso di confronto tra pari, e non, cioè in questo senso. Fatto questo esempio come esempio di una contrapposizione tra una cultura vera e locale che viene assolutizzata, cioè rispetto alle dinamiche planetarie. Allora, poi per il resto sono assolutamente d'accordo. Nel senso della parola, continuiamo a discutere magari dentro, perché stanno preparando da mangiare dentro, e quindi magari l'impressione è che appunto un po' di